fare tutta la... Resto Radio Convento, per raccontarsi, per raccontare. Eccoci qui, precisamente 1:54 del mattino, mercoledì 31 di ottobre 2018. Siete all'ascolto ovviamente di Risto Radio Convento. Io sono Master Nick e sono in compagnia di altri amici che sono venuti a trovarci per Halloween. E mi perdonerete, è interessante parlare con loro perché sono l'esempio della normalità della festa. Nel senso che hanno un po' di trucco, ma non vistoso in faccia. E non hanno abbigliamenti di nessun tipo, ma non hanno... Cioè, non siamo nudi. No, non sono nudi, non hanno abbigliamenti da costume, diciamo così, ma hanno comunque sentito il bisogno di festeggiare e di partecipare a questa festa. Intanto andiamo a conoscerli meglio e per galanteria partiamo dalla signorina al mio fianco. Camilla. Camilla, benvenuta. Io sono Arnoldo. Michele. E Matteo. Michele e Matteo, da dove venite ragazzi? Brescia. Tutti siamo abbastanza vicini. Tutti di Brescia? Siete solo voi quattro come compagnia o c'è una parte che avete abbandonato? No, siamo solo noi perché voi... i reduci di guerra, diciamo. Ah, i reduci di guerra. Sì. Ma uscite veramente sempre voi quattro? No, va bene. Ah, più larga, più larga. In realtà noi tre, mi si è aggregato. Bravo, bravo, bravo. Siamo le compagnie numerose, no? Bravo, tu sei quello, esatto, che si fa freddo a bere, che si aggancia... All'occasione. Bravo, all'occasione. Tu sei il perfetto... Sai quando si giocava all'oratorio, che eri 5 contro 5? Quello che e mancava il numero. Bravo, mancava per chiudere la squadra, no? E lui è quello... Non tappabuchi, completa il gruppo, completa il gruppo. E in maniera più netta. Importante, importante. Chi è che ci sta provando con lei di voi tre? Nessuno. Tutti e tre, immagino. Nessuno. Spero di no. Però un po' di interesse. C'è un po' di interesse. Non so in quale occhio dei tre che hai, ma vedo dell'interesse. In uno dei tre occhi. Un incesto. Attenzione, perché qui ci sono ammissioni importanti. C'è stato un incesto. No, cioè, no, ha scelto un tentato incesto. Ha una scelto. Una storia che è stata raccontata male. No, ok. Perché, però ha scelto il microfono per dichiarare questo momento importante della sua vita. Quindi, insomma, era una cosa che teneva dentro, evidentemente. Voleva. Sentiva il bisogno di condividere. Esatto. Bravo, bravo, bravo. A casa. Solo che non ha preso il telecomando. Ma. E io mi sono fermato perché non volevo andare avanti, ma. Mi stavo già immaginando la scena. E mi stavo preoccupando tantissimo. Escono troppi elementi qua. Esatto. E continuo a dire, ma io volevo vedere il 6, ma non arriva sto 6. Esatto. Italia 1 c'è. E intanto dall'altra parte c'era Mugoli. C'erano no? No, noi non eravamo arrivati, tutto tranquillo. Non arrivati a quel punto. Ah, no, non ero arrivato a quel punto. Diciamo che la cosa è stata interrotta sul nascere. Ah, sul nascere, sul nascere. Come le più belle storie d'amore che rimangono platoniche. Ma cambiamo argomento. Certo, no. Un quarto d'ora che passa. Sì, ma perché noi insomma saltiamo di pari in frasca, come si dice. E cosa fate ragazzi nella vita? Si lavora, si produce. Beh, quello insomma già lo diceva. Due studenti. Università, due lavoratori. Lavorano. Di cosa università? Ingegneria di... No, complicato. Nutrizione umana. Molto complicato. Ah, perché c'è anche nutrizione animale? Certo. C'è proprio la non lo sapevo. La faccio anche quella, però. Faccio scienze e tecnologie. Fai anche quella perché a volte non sai distinguere l'umano dall'animale, non perché studi entrambi i campi. A volte sì. Anche stasera si vede la presenza di notevole Bravo. Maiale. Esatto, esatto. Quindi, allora aspetta, nutrizionista, dietologo, quell'ambito lì, il tuo futuro. Il tuo futuro, ok. Mentre tu metti su case, malta, cemento e... La muratrice, lei lo fa mettere agli altri. Esatto, lei dirige. Lei dirige i lavori, giusto, dirige i lavori. E poi per la fatica del lavoro, del troppo lavoro, dite, guardate, conosco uno bravo per farvi mangiare di più o per farvi dimagrire e mangiare meglio e non mangiare schifezze, perché si sa che sui cantieri si mangiano sempre panini al prosciutto. Davvero? E noi siamo contro. Siamo contro il panino al prosciutto tutti i giorni. Contro chi salta la pausa. Bravo, ci vuole più pausa. Perché? Perché attenzione, parere dell'esperto, cosa succede se si salta un pasto? Si va in calo di intake calorico. Giusto. E massa muscolare. Esatto. E soprattutto durante il lavoro, cioè dove si spendono energie. Esatto. Quindi come fai ad arrivare alle 6 di sera dopo? Cioè, io ho studiato elettrotecnica, però secondo me se ti fai un panazzo anche alle 2-3, diciamo, carburi fino alle 6. Esatto. Cioè, poi dopo se ti se insomma, ti schiacci l'aperitivo classico Pirlo Campari, vai sereno. Esatto. Beh, è bello questo, cioè, ci vuole il contraltare, no? L'uomo della strada e no, l'esperto. No, l'uomo della strada nel senso l'uomo vissuto, quello concreto, concreto. Uomo concreto e l'esperto, e l'esperto. Ma siamo veramente vissuti perché... Siamo fratelli. Esatto, ma diciamo che tutti. La vita ci ha riservato davvero delle svolte. Bello. No, bello. Ci sta il momento quello un po'. Ci sta, no, no, ma ci sta il momento pianto, anche perché tristezza. Porta ascolti, noi ne approfittiamo. Il mio momento triste. Quando sono tornato a casa ho trovato gli yogurt caduti. Quello è brutto. È brutto perché magari tu. Quello è brutto. Anche perché. Cioè, comunque non dai molta responsabilità allo yogurt, cioè lo scegli, dici lo metto in frigo quindi a posto, invece no. E poi lo scegli e gli dici io so che duri, cioè non è che non sei un'insalata, esatto. Non sei un'insalata pronta che mi fai 3-4 giorni. Esatto, bravissimo. Sei una quarta gamma. Bravo, bravo. Vedi che noi abbiamo bisogno dell'esperto, perché comunque eleva la conversazione e la porta a un livello successivo e superiore. Quindi tu, dando questa speranza e questa responsabilità allo yogurt, non vuoi rimanere deluso. Esatto, esatto, soprattutto a colazione. Giusto. Perché se tu non parti, diciamo, con l'apporto calorico corretto, e qua viene in appoggio anche il collega Michele, la giornata... In appoggio solo... cioè metaforico, chiaramente. Esatto, meglio specificare subito. Esatto, esatto, specifichiamo che è sempre... E se no, altrimenti la giornata parte in salita. Giusto. Poi arriva che non ci vedi più dalla fame e devi mangiarti la fiesta. Esatto. Che poi contiene liquore. Questo era banale, e quindi, esatto, e quindi sul posto di lavoro non si possono assumere alcolici. Ricordiamo, amici, soprattutto voi che state ritornando a casa adesso in macchina, magari dopo una serata parecchio impegnativa. Giusto. Non bevete prima, magari bevete mentre guidate, che quello si può fare. Però, cioè, se lo reggete l'alcol, bevete cazzo. Beh, ci sono tanti messaggi in questa frase, un po' positivi, un po' contestabili. Ma c'è qualcuno che si sta ascoltando? Sì, penso di sì, e se anche non lo stanno facendo lo potranno fare nei prossimi giorni in replica, in podcast. E facciamo anche parlare l'estraneo, perché poverino. È uno di famiglia anche lui. Sì, però essendo appena entrato nel gruppo, diamogli un attimo di celebrità. E il tuo ruolo nel mondo qual è? Ufficio commerciale. Bravo, estero. Bravo. Estero. Quindi seduto, camicia. E computer. Inglese e mail, bravo. È un duro lavoro, è un duro mondo. Infatti si vede, lui è l'unico non truccato sotto le occhiaie, perché se le porta, cioè, insomma, si è fatto il bianco intorno, ma sul nero non ci ha lavorato, perché già ce l'aveva di su. Bello, davvero caldo. C'è caldo, ci penso che ci sono 18 gradi accesi al condizionatore. Ma voi state bene voi? Ne stanno godendo indirettamente. Saranno queste luci qua. Va bene, allora non vi rubiamo altro tempo, anche perché sennò non vogliamo vedervi dimagrire tutto d'un tratto. E vi diamo modo di salutare e dire qualcosa se volete, se vi va, se volete salutare. Ciao a tutti, buon Halloween e passate una bella serata. Bravo. Ricordiamo l'assunzione di colesterolo solo HDL. Soprattutto cioè la vitamina B12. E ricordatevi di non mettere troppo. Consultare un medico, grazie. E leggete i fogli delle istruzioni, esatto, sempre. Il bugiardino, leggete i bugiardini. Non sa mai che poi vi prendete un chalice per. Che sono fondamentali. Un saluto, ragazzi, okay. Buonanotte! Ciao, grazie.